5C. Ascolta e rispondi. Perché non sei uscita ieri? Perché avevo l'influenza. Perché non hai mangiato niente a cena? Perché non avevo fame. Perché non hai scritto a Maria? Perché non avevo l'indirizzo. Perché non sei rimasta alla festa? Perché non avevo tempo. Perché non siete andati al cinema ieri sera? Perché avevamo sonno. Perché non avete studiato? Perché avevamo molte cose da fare. Perché non avete bevuto niente? Perché non avevamo sete. Perché non avete telefonato a Maria? Perché non avevamo credito sul cellulare.